Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Che palle, Drago, non ci voglio di cominciare tutte le volte con bentornati e chiedo asilo. Vabbè, ma questa era prassi, capra, no? Ma non so, sono già stufo. Si chiama liturgia dei programmi radiofonici o televisivi. Vabbè. C'è la liturgia. E invece mi piacerebbe dire, non so, wir sind wieder im Kindergarten. Vabbè, ma così oppure, non capisce nessuno. Nous voilà encore à l'école maternelle. Vabbè, dai, allora facciamo finta che ci siano le lezioni oppure, di lingua. Oppure, salam aleikum. Ecco. No, ma che lezioni di lingua, Drago? Ci sono 100.000 nuovi studenti non italiani all'anno nella scuola italiana. Quindi vabbè, bisogna cominciare a parlare delle altre lingue. Dai. Vabbè, ho capito, però con la Bossi Fini, dai, 100.000 poi diminuiscono. Ma sai, Bossi Fini ormai sembra un ossimoro. Sì, Bossi Fini. Come fanno ad applicare la legge? Perché telefonano a Bossi, gli dicono va bene se espelliamo questi, sì, però dovete chiamare anche Fini, perché la Bossi Fini, e Fini risponde no. È un bel casino. Lo so, te l'ho detto, è un ossimoro. È un ossimoro. Non, vabbè, è una legge. Comunque adesso, oltre a, diciamo, i clandestini normali, quelli che arrivano perché, vabbè, non vogliono stare nelle terre dove abitano per loro motivi, ci sono anche i profughi, quelli già, che scappano dalle guerre, quelli che scappano dalle alluvioni. Pensa al Pakistan. Pensa che adesso a Jarre, ad esempio, sono arrivati centinaia e centinaia di magrebini pronti a dire «Ah, noi non stiamo bene, siamo perseguitati, vogliamo venire in Italia». Una repubblica come la nostra, con governanti bambini, non può affrontare un'emergenza del genere. Ma non è vero, genere. Non è vero. Guarda che il bambino premier Berlusconi ha lasciato un attimo perdere le cose, le case in Monte Carlo, i cugini, dei cognati, speriamo, delle sorelle da parte di madre, eccetera. E ha spiegato per filo e per segno come affrontare la questione profughi. Cioè, il bambino premier Berlusconi ha in testa, e anzi forse mette anche in pratica, una procedura precisissima per dare asilo politico. Ascolta. Se invece la imbarcazione con i profughi viene intercettata dentro le nostre acque territoriali, ecco, ci l'abordiamo, serviamo sempre bibite, cibo, vestiti e coperte, champagne, oppure li carichiamo addirittura sulle nostre navi e le portiamo nei nostri porti, dove vengono introdotti nei centri di identificazione. Le persone che chiedono asilo nido, come asilo nido, vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose, e allora diamo il diritto di asilo. Ecco, cioè il diritto d'asilo nido viene dato a dei profughi, quindi presumo di età inferiore ai 3 anni, perché sennò dovrebbero andare all'asilo normale, alla scuola materna, che abbiano dei requisiti di non democraticità nei paesi da cui arrivano. Ma scusa, ma come funziona? Non lo so, sentiamo le dichiarazioni di un profugo appena sbarcato sulle coste italiane che ha chiesto asilo nido. Ecco, vedi? Dice che faceva il giornalista in Somalia e che poi lo hanno minacciato di morte se avesse continuato a pubblicare i suoi articoli sulla corruzione del governo. Sai come succede? Ma sei sicuro che dica proprio così? Sì, sì, dice quello. Poi dice, senti, che qui, ecco, qui potrebbe continuare a lavorare per la resistenza. Insomma, sì, beh, diciamo che questo bambino ha tutti i requisiti per essere ammesso in un asilo nido. Beh, certo, però i problemi dei giornalisti, Sì, anche in Russia ci sono, però in Russia. E meno male che questo bambino non si è imbattuto nel bambino Calderoli, che la pensa completamente in modo diverso dal bambino premier Berlusconi. Adesso, quando arrivano, girano la loro navettina e tornano a casa Lessi. No. Tito, sta bravo. Perché non diceva Lessi, la tua amica era cagnetta. L-E-S-S-I. Sì, tornano a casa bolliti, in pratica. Perché vengono pattugliati sotto le coste da parte degli equipaggi misti libici italiani. Beh, però i libici, scusa, non è che siano tanto affidabili. Adesso sparano ai pescatori. No, senti, bambino Calderoli, ci spieghi com'è che devono fare i nostri pescatori per evitare di farsi sparare addosso? La voce è passata e adesso sbarcano in Spagna. Ma come? Vabbè, ma tanto sono bambini siciliani, cosa gliene frega il bambino Calderoli? Oh, ecco la ricreazione. No, in genere lo dico io. Stavolta lo dico anch'io. Vabbè, perché bravo. Sono contento di vedere che tra i bambini va tutto bene. Italiani, tra i bambini, stranieri, va tutto bene. Va tutto bene. La sigla di Franchi. Tra i bambini. Regredisci veramente ai tempi delle elementari. Vedi, italiani, stranieri, cristiani, musulmani, bianchi, neri, gialli. Per i bambini non succede niente. Tutti amici, tutti insieme. Tutti tranne uno. Tranne uno, guardalo di solito, sempre lì da solo, in disparte. Povero bambino Alberto. Poi cosa c'è? E poi perché povero? Vabbè. Ma no, sei lì tutto solo ogni volta, in disparte. E per forza! Oggi sono così arrabbiato che se mi metto a giocare, almeno qualcuno. Ma come? Vabbè. Ma perché? Cos'è successo stavolta? È sempre qualcosa. C'è chi ho chiesto asilo nido e non me l'hanno concesso. Vabbè, per forza, se è la scuola materna, non puoi chiedere asilo nido. Ma no! No. Ho chiesto asilo nido nel senso di asilo politico, come dice il bambino premier Berlusconi. Le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame e allora diamo il diritto di asilo. Solo che lui lo fa facile, ma alla fine non te lo danno mica sto benedetto asilo nido. Beh, bisogna avere dei motivi, Albertuccio. Tu che motivi hai per chiedere asilo nido? Beh, sono un cittadino sprovvisto dei più elementari diritti. Vi basta? Ma non è vero, scusa. Sei qui all'asilo, questo significa che hai diritto a qualcosa, tipo ad andare all'asilo. Se fossi sprovvisto di diritti, probabilmente a quest'ora staresti cucendo palloni di cuoio. Beh, figo però, no? Ma cosa? Come figo? Così potrei bucare tutti i palloni dell'Inter. Ma vabbè, dai. Comunque ha ragione K, Bertoldo, perché K ha ragione. No, ma che Bertoldo? Bertoldo ha ragione, perché Bertoldo, ha tutti i diritti, tu hai tutti i diritti possibili, caro Bertoldo. Non puoi richiedere asilo nido politico, che dir si voglia, perché non puoi. Scusate, abbiate pazienza. Io non posso uscire quando voglio. No. Né dall'asilo, né da casa. Perché all'asilo c'è Suor Dentona, che fa la guzzina. Fa bene. A casa ci sono mamma e papà e io faccio quello che dicono loro. Ma è la legge, Albertino, Albertuccio, è la legge, è la legge, Tu sei minorenne, quindi dipendi dagli altri, dai tuoi genitori quando sei in casa e da Suor Dentona quando sei qui all'asilo. E dall'insegnante di nuoto quando sei a nuoto. Certo. Dall'insegnante di judo quando sei a judo. E dall'insegnante di ricamo quando sei dall'insegnante di ricamo. No, che è ricamo? Vabbè, insomma. E poi il motivo quale sarebbe? Come quale sarebbe? Sei minorenne. Sei minorenne, a 18 anni poi puoi fare quello che vuoi, no? Ma non è giusto. Vabbè. Allora, la carta dei diritti dell'uomo. No. Cosa? Parla di uomo, non di uomo adulto. Ma che ne sai tu della carta dei diritti alla carta? Io so solo che voglio prendermi la macchina, andare a Monte Carlo, bermi un caffè. E invece non posso. E voi invece sì. Beh, noi sì, ma il bambino Fini no, ad esempio, no? No, a lui non conviene, è come te, quindi non può andare Alberta, a Monte Carlo. Inteso come stato del Canada. Alberta, tu sei un bambino, non hai gli stessi diritti di un adulto, basta. Ma è normale, Non è previsto che i bambini possano chiedere asilo politico. Ma io chiedo asilo nido! Ma è lo stesso, nido politico. Tu non puoi chiedere niente. Al massimo chiami il telefono azzurro e spieghi che, poverino, non ti è concesso di prendere la macchina per farti il tuo caffettino a Monte Carlo. Poverino. Poi vedrai cosa ti rispondono poi. Ho già fatto. Cosa ti hanno detto? Mi hanno consigliato Portofino. Ma come? Perché dicono che è più vicino e alla fine è anche più bello. No, vabbè, questione di gusti, scusa. Andiamo a Monte Carlo. Ma dai, ragazzi! Vabbè, Tito, stavo parlando di Monte Carlo, che ci porta Portofino, dai, stiamo finendo fuori strada. Allora vi faccio degli altri esempi. Ancora. Così capite che sono perseguitato. Ma che perseguitato? E che merito l'asilo nido politico. Allora, non posso guardare la TV quando voglio. Poverino. No. Non posso andare sul sito internet che voglio io. Anche perché, ma chissà che siti internet visiteresti. Vabbè, qualsiasi. Non posso giocare al videopoker. Come no? Vabbè, dai, questo è grave. Come? Non mi sembra che ci siano gli estremi per una richiesta di asilo nido politico. E videopoker. Ah no? No. Allora, prendete un po' la storia di Finocchi e Cotti. Ancora? A me non piacciono e devo mangiare lo stesso. E questo lo sapete. I miei compagni musulmani non mangiano il prosciutto, ma nessuno li obbliga a mangiarlo. Vabbè, ma quella è una questione religiosa. Religiosa. La religione cristiana non dice niente contro i Finocchi Cotti. Ma nemmeno a favore. Questo non lo so. Bisogna vedere. Dipende. Allora, voi trovatemi un punto della Bibbia o del Vangelo dove c'è Dio che dice: mangerete finocchi cotti e la vostra stirpe si rinforzerà. E io allora mi metto a mangiare finocchi cotti tutti i giorni. Mangerete finocchi cotti e la vostra stirpe si rinforzerà. Allora li mangio. Bravo. Si può avere anche un filo d'olio? È un po' d'olio. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. torniamo domani. E indirizzate i vostri gommoni verso chiedoasilo@radio24.it. Yeah.